Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Noi siamo un paese meraviglioso, complesso, con una serie di caratteristiche che in definitiva il mondo ci invidia. Una delle nostre caratteristiche è una forte differenziazione tra le varie zone d'Italia, differenziazione acuita dai dialetti, e il dialetto nel cinema, nel teatro ha avuto sempre un ruolo fondamentale. Pensate a Gilberto Govi, Genova, pensate ovviamente a Totò Edoardo, Napoli, pensate a Verdone, Roma, e insomma abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Bene, oggi noi raccontiamo la storia di un uomo che è stato un artista poliedrico, è stato un attore, un cantante, un comico, un uomo che ha fatto della lingua veneta il suo asso nella manica, in particolare del veneziano. Oggi parliamo di Lino Toffolo. Avrei voluto nascere a Betlemme, ma l'idea era già stata ampiamente sfruttata, così che ebbi i natali in un'amena isola della laguna di Venezia, Murano, che in tal modo ebbe un motivo in più per essere famosa nel mondo. Correva l'anno 1934 e già nubi di guerra si addensavano all'orizzonte. Evidente anche lo sbaglio imperdonabile nella scelta del momento. Murano, una delle tante perle della laguna di Venezia, le case che si affacciano sui canali, le botteghe dei vetrai, dei decoratori che trasformano il vetro rovente in opere d'arte. Se vi capita, andate a vedere come lavorano, perché è veramente una bella esperienza. Bene, qui in mezzo a queste case che sanno di mare, ma anche di creatività e di colori, c'è il padre di Lino Toffolo, che ha appunto una bottega da vetraio, però è anche un grande intrattenitore, un uomo dalla parlantina facile. Quando c'è una festa di paese, tutti possono contare sul signor Toffolo. Così il piccolo Lino si trova fin da bambino a sfiorare il mondo dello spettacolo. Lui a scuola non è un granché e il padre capisce, lo invoglia a studiare musica. Lui impara a suonare il violino e comincia con piccoli spettacoli. Suona e canta ovviamente in dialetto della sua Venezia. Facevo canzoni veneziane a metà anni 50. Già allora dicevano che la canzone veneziana non aveva più senso. Quando ho scoperto che i poeti non sapevano scrivere parole per canzoni, beh, l'ho fatto io. Ma non avevo il problema di vendere i dischi. Poi c'era mio padre, che sperava sempre che tornassi alla bottega di vetri con lui. Stiamo parlando di anni in cui la gavetta è tutto, anni in cui nulla ti viene regalato, e Lino Toffolo di gavetta ne fa tanta, fino a quando nel 59 approda alla RAI, nella sede veneta della radio, e compone e canta una sigla di un programma che si chiama Il Liston. Lo lasciano fare anche in trasmissione, lui canta, recita, scrive i testi, improvvisa, insomma si fa notare. Questo è sufficiente a scoprire che la carriera nel mondo dello spettacolo può essere un suo sbocco naturale. È vero anche che a Venezia le occasioni non sono molte, bisogna andare nelle grandi città, per esempio a Milano, dove c'è un locale di cui abbiamo già parlato mille volte in altre occasioni, un locale dal quale sta salendo una generazione di comici, Franco Nebbia, Bruno Lauzi, Enzo Iannacci, Cocchi Renato, insomma siamo al derby. Il derby, il locale del cabaret dove gli spettacoli spesso vengono improvvisati, dove ci sono attori che mischiano esperienza e follia, genio creativo. Milano è sempre al centro dell'attenzione, il derby è al centro dell'attenzione. A volte le esibizioni sono in dialetto, ma proprio perché ci si può divertire con il dialetto milanese, ma piano piano al derby cominciano a farsi notare anche personaggi che parlano i dialetti di tutta Italia. Ecco che arriva da Torino Felice Andreasi ed ecco che arriva da Venezia Lino Toffolo. La cadenza veneta è forte, lui non deve enfatizzare il suo accento e per sua fortuna decide di non nasconderlo. Per qualche motivo l'accento veneto viene sempre in qualche modo accostato al parlare di chi ha bevuto un goccetto di troppo, e così sul palco del derby nasce questo personaggio dell'imbriaco, cioè l'ubriacone simpatico che fa le battute poi non se le ricorda, quello che fa ridere tutti per i suoi discorsi sconclusionati. Chi pensava che la televisione fosse così? Mio amico professore che è campione col tiro con l'arco. è pratico. Che sarebbe ben piacere che la possibilità. Così l'emozione. Farlo in televisione, sa che ci piacerebbe, perché di solito lo facciamo all'aperto. E che qua invece all'interno si potrebbe recuperare tutte le frecce, sa. Siamo negli anni 60, un po' alla volta quelli del derby cominciano a sbarcare in Rai e anche Lino Toffolo comincia a fare televisione. All'inizio è in sordina, la sua attività principale è quella di cantante, di attore. Nel 69 per esempio fa un tour in Canada con altri esponenti della musica folk italiana che in quegli anni aveva avuto grande riscontro, quindi Otello Profazio dalla Calabria, Gabriella Ferri, e poi c'è una grande interpretazione di Addio a Lugano con un quintetto di eccezione: Iannacci, Profazio, Gaber, Silverio Pisu, fratello di Mario e Raffaele Pisu, e Lino Toffolo. Intanto nel 68 arrivano anche i primi musicarelli, sono i famosi film nei quali i cantanti più noti, più di successo, cantavano insomma le loro canzoni. Il film era quasi un pretesto, ma ci volevano dei personaggi simpatici di contorno, e Lino Toffolo è perfetto anche per quei ruoli. E poi ci sono le sue canzoni in dialetto, che partono dal dialetto poi vengono tradotte in italiano, come accade per esempio a canzoni come Gasto mai pensà, che Iannacci traduce e incide con il titolo Hai pensato mai. Il falco e il gabbiano. E come spesso accade a molti caratteristi, Lino Toffolo comincia a lavorare nel cinema con alcuni tra i più grandi registi italiani: la Vermüller, Salvatore Samperi, Dino Risi, Pasquale Festa Campanile. I film sono tutti abbastanza connotati, le classiche commedie italiane, da quelle un po' più scollacciate a quelle che portano l'avant spettacolo sul grande schermo, a quelle che in qualche modo invece salgono di livello. Quindi alla rinfusa, insomma, ci sono il Merlo Maschio, Peccato Veniale, con la Strisce Nobile Veneziano. Ma poi c'è un momento in cui Toffolo ha l'occasione di dividere il set con un grande attore, un grande regista, cioè Monicelli e Gassman, perché lui fa parte della sgangherata armata Brancaleone. Chi di voi conosce il linguaggio di questo spregiatore di Cristo? Me, Panigotto da Vinegia, gran viaggiator. Go incontra popoli e nazioni e conosco il loro costume. Cane! Parla cane! Non sape, l'opposto più vicino è Scaturchiano! Ha detto che l'opposto più vicino è Scaturchiano. Io dicevo cose brevissime. Gassman invece dopo 20 minuti sapeva due pagine a memoria di quella lingua nuova. Un fenomeno. Io per recitare devo essere spontaneo. Credo cioè che le sensazioni si debbano avere dentro. Sì, Lino Toffolo ha un talento che gioca molto sull'improvvisazione. D'altra parte, quando si ha a che fare con personaggi come lui, è normale che la sua comicità in qualche modo scaturisca dalla spontaneità. E il cinema a volte, insomma, ha dei copioni da imparare a memoria, ma a Toffolo i registi lasciano sempre una certa libertà di iniziativa. Naturalmente a teatro è diverso, perché lì bisogna dare la battuta e riceverla, però per Toffolo il teatro è facile, perché lui porta le commedie di Goldoni, quindi gioca in casa, ha un vantaggio linguistico, ma diciamo anche culturale, e il successo non si fa attendere. Quando io ho fatto Gli Ubriachi, è stato il mio successo popolare, che non lo volevo mai fare perché nella mia presunzione sapevo che avrebbe avuto un risultato. E Giorgio proprio mi ha detto, perché non fai una cosa... Io infatti avevo anche chiesto, ma sei sicuro? Non è che non sei rimasto senza nessuno, hai chiamato proprio me? No, e là è stata la svolta. Non ho fatto i testi che mi avevano proposto, ho fatto le cose mie, è andata. Giorgio ovviamente è Giorgio Gaber, e lui intanto lavora nel cabaret, ma lavora nel cinema, poi in teatro, ma alla fine lo sbocco naturale e anche richiesto per tutti i comici di quella generazione è la televisione, che in quegli anni si sta rinnovando. Lui l'aveva fatta nel 69 con Iannacci, poi nel 76 arriva invece, come dire, un altro approccio, va in onda la trasmissione abbinata alla Lotteria Italia, un appuntamento classico con un pubblico vasto, e lì arriva il successo, arriva con una sigla disegnata da Bruno Bozzetto. La sigla è una canzone per bambini, in quegli anni si usava molto, e la canzone diventa un classico per tutte le età. Johnny Bassotto. Erano gli anni di Sei forte papà di Morandi, della Tartaruga di Lauz, insomma c'erano molte canzoni per bambini che andavano al primo posto in hit parade, anche perché non c'erano ancora gli One Direction e cose di questo genere, quindi i bambini si approcciavano a quel tipo di musica. Comunque Johnny Bassotto è un grande successo e Lino Toffolo diventa anche una star della pubblicità, perché esce una campagna pubblicitaria di una famosa marmellata in cui Toffolo fa il verso a se stesso. Chi ha mangiato la confettura? Ma? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Il papà a fine cena. È vero. Confetture Santa Rosa, frutta fresca a pezzettoni. Insomma, è un successo enorme che in qualche modo scavalca, supera la figura dell'ubriaco, dell'imbriaco, del cavallo di battaglia di Toffolo nella prima parte della sua carriera. Poi, peraltro, va detto che la grande passione per il vino che lui mostra nelle sue performance in realtà non corrisponde alla realtà, perché lui ha sempre dichiarato di essere un bevitore modesto, e anche quando arriva la classica domanda su quale sia la chiave del successo, Toffolo ha la risposta pronta: la fortuna e la simpatia, perché io ho fatto delle cose che mai mi sarei sognato di fare. La chiave della mia vita è: perché non vieni a... perché io ho iniziato con il patronato che mi ha chiesto: perché non vieni a Venezia che ne parliamo? E poi: perché non vieni in Rai? E via così. Sono sempre andato avanti accettando i perché non vieni a... Naturalmente, quando arriva una canzone di successo, in qualche modo ti chiedono di replicare quel successo. Insomma, inizia un periodo molto fortunato in cui Toffolo si dedica alla canzone per bambini, e quindi c'è Io di più, che fa da sigla a un cartone animato, poi Pasta e fagioli, che è un adattamento di una marcetta tedesca. Insomma, canzoni leggere nelle quali il comico veneziano piace ai bambini e sa anche intrattenere i loro genitori, sempre rappresentando la sua terra. La venezianità c'è sempre nei personaggi che lui interpreta, al teatro come al cinema, c'è qualcosa di lui. Come lui ha anche detto in un'intervista: io non recito, io parlo. Questo è il colpo d'ala stilistico di Lino Toffolo, che riesce con la sua spontaneità a rappresentare la sua cultura, la sua terra, il suo popolo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Lino Toffolo, che dalla bottega paterna di vetraio a Murano riesce a mettersi in luce nel mondo della musica, del teatro, della televisione e del cinema. E proprio dal cinema vogliamo ricominciare a parlare di Toffolo, perché in questo ruolo, nel ruolo di attore, lui riesce a vivere una vita multiforme che lo porta a interpretare ruoli diversi in diversi momenti della sua carriera. Inizia con un musicarello, col film Chimera, Chimera è la canzone storica di Gianni Morandi, Se il mio cuore spera non sarà solo una chimera, e lui interpreta il personaggio che un po' diventa il luogo comune di quel momento, il veneto sempliciotto, sciocco, che arriva per ultimo nei ragionamenti. Ma già dal film successivo il livello si alza, arriva Brancaleone, l'abbiamo detto, con Monicelli, con Gassman, e poi il Merlo Maschio, un altro film di un certo livello stilistico, quello con Lando Buzzanca. Insomma, i personaggi di Toffolo diventano sempre più raffinati, diventano caricature comiche del popolo veneto con riflessi sempre più seri e malinconici. Insomma, la macchietta lascia il posto a una maschera della commedia di ottimo livello. Con le fucile, si nota Coco. Ti sei matto? Molla, va giù dalla barca. Avanti, va giù in acqua. Dai, non sta a fare il mona. Puoi prendere 10 anni di galera per resistenza a pubblico ufficiale. Dai. E qua fai, basta. Dammi questa soddisfazione. Va giù da qua, dai. Oh, che mai fredda. Vai in acqua, se no ti accoppo davvero. Mi appaghi cara questa. Fissa maledetto, figlio di una troia. Resistenza a pubblico ufficiale. 10 anni ti faccio dare. Sempre questi 10 anni. Mi sono legato ai rappresentanti del comune, Piazza Pio! Allora sai cosa ti dico? Vai in Monati, le anguille e anche a tutto il comune! Ciao, fare vengo! Questo è il film Un'anguilla da 300 milioni, siamo nel 71, il regista è Salvatore Samperi e lui ha finalmente la parte del protagonista, un pescatore di frodo che viene coinvolto in un finto rapimento e qui Toffolo si distingue per la prima volta in un ruolo diverso da tutti quelli interpretati precedentemente, perché è un personaggio malinconico con un po' di umorismo, ma non l'umorismo grasso a cui il suo pubblico stava per abituarsi. Toffolo mette in evidenza qui le sue doti di attore poliedrico e i grandi sono quelli che sanno farti ridere e piangere nel giro di pochi secondi e quindi questo possiamo definirlo il suo colpo d'ala stilistico. Poi però, come sempre accade, il livello si alza e si abbassa. Nel 78, per esempio, nel film Scherzi da prete di Pierfrancesco Pingitore, il cast è quello del Bagaglino, c'è Pippo Franco, c'è Bombolo, insomma i toni e i livelli forse si abbassano un po' e Toffolo decide di allontanarsi da quel cinema che forse gli dà meno di quello che lui sperava di ricevere, cioè si ritrova di nuovo legato al cinema della battuta, dei doppi sensi e lui infatti il motivo di questo allontanamento lo spiega in un'intervista. E qual è l'ultimo film che ha fatto? Quando l'ha fatto? Tanti anni fa, poi mi sono rifiutato di farli perché in Italia come città viene sempre collegato a volgare. E allora gli ultimi erano vergognosi, non gli dico neanche i nomi, e i copioni che arrivavano era sempre su quelli là. Allora io dico sempre le stesse cose. Per fame faccio anche le marchette sotto il cavalcavia, ma senza fame. E sono anche grasso, mi andrebbe bene un po' di fame. Faccio solo cose che mi divertono, quindi non vale la pena. E questo è un altro colpo d'ala, il fatto di intuire che il cinema gli sta riservando dei ruoli che lui non ritiene alla sua altezza, giustamente. Una frase famosa sua fu: mi hanno proposto tante troiate, le ho sempre rifiutate. E insomma lui liquida la sua carriera nel cinema e per continuare in teatro e in televisione, e col passare degli anni pensa a cose sempre più serie, ha voglia di affrontare discorsi sempre più difficili. Così arriva nel 2009 una fiction in compagnia di Lino Banfi. Il titolo è Scusate il disturbo e si affronta un problema molto serio, il morbo di Alzheimer. Il personaggio mio, il personaggio di questo falegname che comanda un po', questo che dice sempre va bene, cosa? Ciò? Sì? Comandi? Che Lino? Perché Lino? Perché proprio in Veneto è così. È stato anche bello e facile farlo, perché lavorando con Lino Banfi, che è un bravissimo attore e di grandissimo mestiere, era sembrava un po' una coppiata da staglio e olio, insomma, neanche si provava, si andava diritti. Il personaggio è riuscito e l'idea è di portare un progetto simile anche in teatro, così nel 2011 va in scena Lei chi è una commedia in dialetto veneziano che affronta ancora una volta un argomento difficile e delicato, e questa volta Toffolo cerca di parlare proprio dell'Alzheimer usando la parte comica del suo carattere. È uno spettacolo tragicomico. L'Alzheimer, come gli ubriachi, permette di cambiare discorso in fretta. Se tu inizi un discorso ma non hai più voglia di andare avanti, lo lasci lì e ne inizi un altro e nessuno si scandalizza. A teatro, per esempio, lo spettacolo inizia dal secondo atto, così la parte più triste la liquidiamo all'inizio e poi finiamo con una bella risata. Lei chi è l'ultima commedia che Toffolo porta in teatro. Le gambe cominciano a far male, la testa è lucida, ma diventa sempre più faticoso calcare le assi del palcoscenico. Insomma, Lino si ritira a vita privata e trascorre le sue giornate nella casa di Murano, che ha una splendida terrazza che si affaccia sulla laguna. E il 17 maggio 2016 Lino Toffolo viene colpito da un infarto, muore all'età di 81 anni, era convalescente da un'operazione al cuore, pochi giorni prima era stato ricoverato per una caduta, insomma avvenimenti che concatenati tra loro in qualche modo lo portano verso il finale. Quello che conta però è che il mondo dello spettacolo perde uno dei suoi protagonisti più interessanti, più poliedrici, e oggi per ricordare ancora qualche aneddoto sulla vita di Toffolo, abbiamo al telefono un suo grande amico, un compagno di avventura, Renato Pozzetto. Buongiorno Renato. Ciao, come stai? Tutto bene. Noi stiamo raccontando la storia di Lino Toffolo. Sì, sì. E quindi non potevamo non sentirti, perché tante cose di Toffolo ci riconducono a te. Intanto la gelateria Gattullo. Dove? La gelateria Gattullo, voi vi siete conosciuti lì o giù di lì? No, io frequentavo la gelateria Gattullo in momenti non sospetti, da ragazzino, prima di fare il saltimbanco, quando avevo 16-17 anni. Sì. C'era un gruppo di ragazzi molto interessanti, curiosi, pieni di vivacità, anche di inventiva, avevano un linguaggio loro curiosissimo. Poi quando siamo approdati, diciamo, al cabaret attraverso un'osteria di via Lentasio, sì, dove si ritrovavano soprattutto i pittori, insomma, sì, gli artisti in genere. Hanno aperto poi di fianco l'osteria una galleria d'arte notturna che si chiamava La Muffola. Hanno aperto questa galleria d'arte e ha chiamato un sacco di gente, per la curiosità, un sacco di artisti che esponevano le proprie opere. E io e Cocchi strimpellavamo la chitarra, poi sono passati gli Annacci, Lauzi, certo, c'era Giorgio Gaber, Maria Monti, certo, eccetera eccetera. Questo qua decide di aprire un cabaret e lo apre in un negozio lì vicino a 150 metri, diciamo, nella cantina di un bar. Sì. Una cosa modestissima, ci stavano 20-30 persone di, sì, pubblico, sì, poi c'eravamo noi camerieri, insomma era una cosa molto... E lì qualcuno diceva, va bene, facciamolo, ed erano Lauzi, Lino, Toffolo, poi c'era poi arrivato Andreasi, Iannacci, sì, che era incuriosito così dalla nostra avventura e veniva spesso a trovarci. Ecco, lì abbiamo cominciato a ospitare Lino, perché veniva da fuori, era povero come tutti noi, perché, sì, io ero figlio di un impiegato, ho quattro figli, la guerra che aveva rovinato tutto, certo, ci ha fatto perdere la casa. Lino, che veniva poiché raccontava le sue esperienze col vetro, che trasportava con la barca Remi i vetri da Murano a Venezia per spedirli, per venderli, non so, vabbè. E allora veniva a casa, veniva mia. E com'era sto ragazzino? Eh no, cazzo, era simpatico. Lui poi gli veniva pace, lui aveva quella faccia lì, sì, simpaticissima, con quel sorriso, e raccontava, e il pubblico cominciava a ridere, certo, la raccontava. Certo. In quel modo, con umorismo così. E con noi, geologicamente, stando insieme tanto tempo, sei quasi 10 anni insieme a fare il cabaret, siamo diventati fatalmente amici. E poi lui, soprattutto, lui veniva a casa mia e viveva lì, mia mamma gli lavava le mutande, gli lavava le camicie, eccetera. E quindi aveva anche una riconoscenza, diciamo così, certo, ai miei genitori. Sì. Senti, ma siete rimasti amici fino anche negli anni successivi? Siamo rimasti amici fino all'ultimo momento, perché io avevo preso, per colpa sua, una casa a Venezia. E quindi, insomma, spesso ci andavo, quando andavo a Venezia, ho tenuto anche una barca di un coso per andare per la laguna, che a me piaceva, sì, piace ancora tanto, e quindi andavo a trovarlo a casa, lui abitava su Caragrani di Murano, sì, e allora andavo spesso lì, e lui mi accompagnava quando ci sono le regate, sai, quelle manifestazioni, certo, ricchissime veneziane, ecco. Senti, ma anche negli anni, diciamo, della maturità, lui era rimasto, almeno quello che si percepiva vedendolo, era che fosse una persona positiva, una persona con la quale era bello stare assieme, è così? Sì, sì, assolutamente così, assolutamente una persona onesta, assolutamente una persona innamorata del suo paese lì, che non si può confondere con un altro angolo del mondo, capisci? No, certo. E lui era fiero di quel modo particolare, della fatica della gente a soffiare il vetro, del modo in cui lo facevano, aveva tanti amici, cioè tutte le botteghe si erano amiche e tutti gli volevano bene. Però era un tipo strano, perché è passato a un certo momento da un abbigliamento da artista clochard, no? No. Un po' trasandato, con qualche buco nelle... da un giorno all'altro, perlomeno per me, perché poi da un giorno sono stato a trovarlo, era tutto elegante, un dandy, sì, un dandy, cazzo. E poi mi ha portato a mangiare alla Risbar, che è una, sì, che è posto conosciuto in tutto il mondo, al tavolo con l'Arrigo, che è proprietario della Risbar. Lui mangiava lì, non mi aspettava, pagava il conto, insomma, stava bene con il suo cravattino elegantissimo, cioè aveva avuto anche questo momento di cambiamento. scherzavo, io lo prendevo per il culo logicamente, però ci divertivamo. Certo. Io ridevo, guarda, ridevo degli aneddoti che non ti posso, ti posso dire, perché sono un po' da ragazzacci. Allora, quello, quando ci incontriamo me li racconti. Sì, sì. Ma guarda, lui era dolcissimo, poi sempre pronto alla, alla risata, era molto spiritoso e poi, poi anche poeta, aveva scritto delle cose, delle canzoni, non so se le certo. ascoltate. Certo, delle canzoni, come no. Tant'è che noi dicevamo, ma di la verità, dai, chi le ha scritte, dove le hai copiate? Allora smettiamo magari di ridere per voi. Bene, Renato, non so come ringraziarti, hai veramente chiuso il cerchio e la tua maniera. Un abbraccio, grazie Renato Pozzetto. Grazie anche a te, ciao, a presto, ciao, grazie. Come in molte vite di quelle che noi raccontiamo, tanti colpi d'ala, tante strade intraprese, ma un grande ricordo lasciato. È la storia di un attore che ha fatto della sua venezianità una cifra stilistica importante e che ha rifiutato di essere imprigionato in un ruolo stereotipato che non gli piaceva per fare le cose che gli piacevano. Quindi una vita vissuta sempre in salita, soprattutto con se stesso. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se conoscete delle storie che volete che noi raccontiamo, oppure interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.